Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì e come ormai sapete andiamo a scuola con la nostra rubrica Investire Informati, che ogni settimana ci fa imparare qualcosa di nuovo sul mondo dell'economia, del risparmio e degli investimenti. Ma prima della scuola di risparmio, a cui dedicheremo il nostro programma nella sua seconda parte, oggi con la nostra esperta, la professoressa Raffaella Docimo, presidente della SIOI, la Società Italiana di Odontoiatria Infantile, andremo a scuola di igiene, perché è importante saper investire i nostri denari. Come ormai abbiamo imparato a cuore denari, dobbiamo sapere investire bene anche sulla nostra salute. Del resto, come già amava dire Schopenhauer, la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Questo è un grandissimo cavallo di battaglia di Nicoletta Carbone, che ormai anch'io ho fatto mio. Allora, oggi investiamo sulla salute della bocca dei nostri bambini per evitare che si ritrovino ad essere degli adulti sdentati. L'obiettivo quindi è far crescere bene i nostri 32 denti, mantenerli a lungo sani e forti per poter svolgere fino in fondo i loro doveri il più a lungo possibile. Quindi dagli 0 anni in su il nostro numero verde è a vostra disposizione. Chiaramente ci rivolgiamo soprattutto alle mamme e ai papà in qualche maniera preoccupati o che hanno delle domande da fare sulla salute della bocca dei propri bambini. Il nostro numero verde come sempre è a vostra disposizione, 800 24 00 24. Dopo il GR delle 11, come anticipato, spazio alla nostra rubrica del giovedì Investire Informati. Parliamo di risparmio, investimenti alla luce dell'attualità, e quindi in questa settimana così particolare non potremo che occuparci del dopo attentati di Parigi di venerdì. Poteva essere una settimana durissima per i mercati finanziari internazionali, invece la reazione delle borse da lunedì in avanti è stata più solida di quello che ci aspettavamo. In ogni caso, l'offensiva del terrorismo ripropone drammaticamente le questioni geopolitiche fra i fattori più rilevanti a condizionare i mercati e l'economia. Quindi partiremo da questo per poi ritoccare di nuovo il tema tassi di interesse, politiche monetarie, come vanno i paesi emergenti, dove vanno appunto i tassi di interesse, perché questo è il tema centrale all'attenzione degli investitori. Oggi un focus approfondito con Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. È qui il dentista? Aiuto, signor dentista! Nel 2013, secondo i dati diffusi dall'Istat, la quota di popolazione che durante l'anno ha effettuato almeno una visita è stata del 37,9%, e non va meglio per i bambini. Infatti, oltre il 75% dei bambini fra i 3 e i 5 anni non è mai stato dal dentista, e le carie fra i più piccoli sono in sensibile aumento, sono aumentate in questo periodo del 15%. Insomma, la crisi economica morde anche sulla salute della bocca. Allora partiremo da una considerazione su questo con la nostra ospite di oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Raffaella Docimo. Raffaella Docimo, presidente della SIOI, la Società Italiana di Odontoiatria Infantile, responsabile di odontoiatria pediatrica all'Isola Tiberina Fate Bene Fratelli e titolare della cattedra di odontoiatria pediatrica all'Università di Tor Vergata. Professoressa Docimo, buongiorno, ben ritrovata a Cuore Denari. Buongiorno a lei, buongiorno. Grazie di essere con noi. Direi di partire con un commento da questi dati, professoressa Docimo. È una situazione che lei avrà certamente ben chiara, che tra l'altro per tutti gli interessati verrà approfondita nella 2 giorni dedicata all'odontoiatria infantile che si svolgeranno a Roma nei prossimi 3 e 4 dicembre. Allora diamo subito una convocazione ai nostri ascoltatori che magari vorranno venire ad ascoltare qualche considerazione su questo argomento. Sì, noi abbiamo come Società Italiana di Odontoiatria Infantile organizzato il nostro 18° congresso nazionale, che avrà luogo al Maxi di Roma, in 2 giorni che vedrà impegnati relatori nazionali e anche internazionali su temi che risultano essere attualmente temi comuni. Quindi si parlerà di tecniche, si parlerà di aspetti scientifici, di approccio, e si parlerà poi dei temi legati alla prevenzione. Lei ha già toccato un tasto molto dolente, che è quello relativo a dei dati che sono stati appunto pubblicati sull'Istat, perché è vero che da una parte migliora l'efficienza e la qualità del servizio sanitario nazionale, ma certamente le cure odontoiatriche hanno subito una flessione in questi anni di crisi economica, e quella che veniva definita nel 2000 un'epidemia silenziosa in realtà conferma di esserlo ancora oggi, e questo presenza anche con degli costi sociali nella fascia pediatrica molto alti, perché consideriamo per esempio la perdita dei giorni di scuola, il condizionamento sull'apprendimento, sulla salute generale, sulla nutrizione, su quelle che sono poi una prospettiva di qualità di vita anche nell'età pediatrica che possono essere compromesse. Chiaro. Quindi diciamo che gli argomenti sono veramente a largo raggio, ma hanno un obiettivo fondamentale, quello di far crescere bene i nostri bambini, soprattutto limitando quelle che sono le diseguaglianze che ancora oggi sono abbastanza marcate ed evidenti, perché vede, la quota di chi non è stato ancora dall'odontoiatra nel mezzogiorno è doppia rispetto al nord e al centro, e questo si riferisce soprattutto al dato che ha riferito lei dei bambini che ancora non sono andati dal dentista, anche dall'odontoiatra pediatrico, quando invece sarebbe stato opportuno farlo proprio ai fini della prevenzione. Un pediatra di carattere tradizionale, professoressa Docimo, non suggerisce generalmente alla famiglia l'età giusta in cui è suggeribile, consigliabile fare la prima visita odontoiatrica ad un bambino? Guardi, oppure lo fa? Diciamo che lavoriamo congiunti, nel senso che anche questo congresso per esempio ospiterà i pediatri in una sessione comune, questo proprio con l'obiettivo di portare avanti un messaggio condiviso, e che vuole la prima visita nel primo anno di vita, cioè il bambino dovrebbe essere portato dall'odontoiatra pediatrico già nel primo anno di vita. Qui certamente cominciano poi una serie di interrogativi, e perché se non ancora i denti, ma qual è il senso? Il senso è quello di cominciare un percorso quanto più precocemente possibile, perché vede, la filosofia di chi fa odontoiatria pediatrica e non solo, di chi fa prevenzione, è quello di dire non è mai troppo presto. Certo, allora appunto, per andare dal dentista bisogna intanto avere i denti, ma come suggeriva la professoressa Docimo, i primi controlli vanno fatti già entro il primo anno di età del bambino, quindi non bisogna certo aspettare i denti definitivi, è meglio giocare d'anticipo. Parola d'ordine anche in questo campo è rigidamente prevenzione. Prevenzione, professoressa Docimo, partiamo proprio dai fondamentali, ci dia, ci presti per un attimo il suo occhio clinico e ci aiuti già a dare uno sguardo al sorriso sdentato, così dolce per la verità, dei nostri bambini. Quali sono i primi aspetti che dobbiamo tenere sotto osservazione ad un primo sguardo da mamma e papà, insomma? Dunque, il primo sguardo è quello di seguire la crescita del bambino, quindi la crescita dei denti, avendo un occhio attento a quella che è appunto l'igiene orale del cavo orale. Consideri che è opportuno iniziare già quando non sono erotti i primi denti, quindi con quella che è la detersione e l'igiene delle arcate dentarie. Basta una piccola garzina inumidita di cotone per poter detergere e quindi pulire queste arcate, che poi accoglieranno l'eruzione dei primi denti. È ovvio che per tutti i genitori, ed è giusto che sia così, le bocche dei bambini sono belli, ma quello che a noi interessa evidenziare è che talvolta, forse spesso, queste bocche sono evidentemente compromesse e si rimanda per motivi diversi di andare dall'odontoiatra, perché si ritiene che fra questi motivi forse è troppo presto per andarsi. Esatto. È esattamente il contrario di quello che dicevamo prima. Perché? Perché sono denti da latte, e quindi in fondo se un dente è fratturato, se un dente è cariato, perché no? Diciamo, aspettiamo, tanto poi verranno quelli definitivi. E purtroppo da questo proprio principio bisogna cominciare, perché sia fatta chiarezza. Quindi l'occhio clinico dei genitori deve essere l'occhio attento che monitorizza la salute, essendo certi e convinti della necessità non solo di un follow up, quindi diciamo di visite periodiche, ma di diciamo non sottovalutare quelli che non sono solo aspetti transitori, ma possono diventare invece la transitorietà dell'elemento da latte, che poi naturalmente va a cadere per essere sostituito da quello permanente. Questa transitorietà può portare, se compromessa, a un danno permanente poi a carico della futura dentatura. È stata molto chiara. Intanto 800 24 00 24, il numero verde disponibile per i nostri ascoltatori, sono già pronti molti a fare le loro domande. Professoressa Docimo, c'è Dominic da Modena che sentiremo tra un istante, adesso c'è il traffico, ma magari in 30 secondi ce lo dice già, iniziano a spuntare i primi dentini. Dobbiamo insegnare subito ai bambini a fare dei lavaggi regolari della propria boccuccia, anche se i dentini sono da latte? Beh, devono naturalmente, all'inizio sono i genitori, nei primi anni di vita possono essere solo i genitori. Al bambino viene dato lo spazzolino perché comincia a giocare, a prendere una certa dimestichezza, e non lo veda invece come un qualche cosa di estraneo. Poi diciamo che man mano che il bambino cresce, acquisisce maturità, ma questo parliamo diciamo dai 4-5 anni in poi, il bambino può farlo in maniera autonoma, apparente noi diciamo, perché sempre sotto sorveglianza del genitore. C'è Chiara che ci scrive, professoressa Docimo, poi già le faccio fare un commento su questo. Come facciamo ad educare i nostri figli quando passano 8 ore senza lavarsi i denti perché o alla materna o alle elementari non si possono portare lo spazzolino per questioni igieniche? Questa cosa non la sapevo, ne parliamo dopo. Guardi, il traffico. Sì, si aspetti lì, a tra poco. Cuore e denari. Fammi crescere i denti davanti, te ne prego, bambino Gesù. Sono due mani, sembrano tanti, son caduti e non crescono più. C'è grande ilarità in studio stamattina perché qua insomma il tema è un po' trasversale, visto che i nostri collaboratori da Carmelo a Laura insomma sono tutti pieni di bambini qua, che quindi sono molto sensibili all'argomento. Allora siamo di nuovo insieme, stiamo parlando dei denti dei nostri bambini con la professoressa Raffaella Docimo, parliamo di quelli da latte ma anche di quelli che non sono ancora spuntati, di quelli che stanno spuntando e che vanno chiaramente molto ben tenuti sotto controllo, e poi quelli definitivi. La buona salute dei primi, di quelli da latte, è il presupposto della buona salute anche dei secondi, di quelli che saranno definitivi, e quindi quando una cosa è preziosa occorre tenerla da conto. Per i denti questo significa igiene, lavarli bene, ma anche dieta. Adesso ne parleremo con la professoressa Docimo, ma la questione del lavarli a scuola o alla materna, alle elementari, ha sollevato già un vespaio di commenti dagli ascoltatori. Professoressa Docimo, è un problema di cui gli odontoiatri sono consapevoli? Guardi, è un problema enorme e io ringrazio veramente diciamo la signora che ha scritto, così come tutti, anzi direi che in qualche modo più se ne parla e meglio è. Io ho avuto modo di parlarne anche a livello istituzionale. È un problema serio e sembra anche ridicolo, perché devo dire, da una parte siamo noi come classe odontoiatrica, pediatrica, che promuoviamo salute, igiene, alimentazione, e dall'altra purtroppo non siamo seguiti nelle scuole. È vero quello che dice, perché ci sono scuole dove è permesso e consentito far lavare i denti ai bambini dopo i pasti. È chiaro che se un bambino fa il tempo pieno significa che entra alle 8:30 ed esce alle 18, alle 17, quindi ha già consumato merende e pasti e non è stato possibile usare diciamo lo spazzolino. Poi ci sono, guardi, nelle stesse scuole una sezione sì e una sezione no. Poi ci sono alcune scuole dove nella materna fanno lavare i denti e invece diciamo nelle elementari no. C'è chi fa lavare i denti in terza elementare e non in quarta. Cioè, devo dire la verità, certo, è una cosa veramente che ci lascia veramente molto perplessi, perché questo è un problema che va risolto a livello istituzionale. Esatto, e noi abbiamo chiesto, scusi se ne interrompo, abbiamo chiesto diciamo ai nostri interlocutori istituzionali di naturalmente promuovere le linee guida ai quali noi stiamo tutti lavorando a livello ministeriale, ma di fare diciamo un po' corpo insieme per arrivare a una definizione, a dei veri protocolli di prevenzione. Esatto. Anche in questo senso nelle ore scolastiche, durante la giornata, laggiove il bambino passa il maggior numero, certo, di tempo. Abbiamo un ministro della salute che è particolarmente sensibile, sì, a tutto questo, lo sappiamo, anche due bambini piccoli, quindi chissà mai che non si faccia, però promotrice anche speriamo, proprio della via libera ad un protocollo di questo tipo fra odontoiatri e mondo della scuola, che immaginiamo possa essere anche abbastanza difficile, perché abbiamo visto che poi molta buona volontà anche da parte giustamente delle insegnanti, che se dovranno occuparsi anche di questo immagino che il loro carico di lavoro cresca, però insomma in qualche maniera un compromesso bisognerà su questa delicata questione trovarlo. Intanto tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, di mamme, papà, ma anche di nonne. Ce n'è una che ci scrive che la sua nipotina di 2 anni e mezzo non mangia dolci, non mangia carne, beve il latte della mamma durante la notte, ma ha i dentini cariati. Ma le faccio sentire Dominique da Modena, che aspetta da un po', purtroppo abbiamo solo 3 minuti prima dei saluti. Dominique, che è caduto o caduta? Allora andiamo a Carlo da Novara. Carlo, benvenuto. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Senta, sono il papà di un bambino di 11 anni, i denti non penso che non abbia problemi di carie, però è il colore che mi preoccupa, non è proprio bianco, bianco insomma. Da che cosa può dipendere e che cosa si può fare? Grazie Carlo. Professoressa Docimo, un problema diffuso questo, una questione solo estetica che verrà superata da un bambino di 11 anni, oppure 11 anni è un'età giusta per poter fare un focus specifico su un problema di questo tipo? No, sicuramente diciamo un bambino che deve essere osservato, poi diciamo il papà dice credo che non abbia carie, già questo mi insospettisce un po', perché diciamo il bambino o ha uno stato di salute o non ce l'ha, quindi diciamo che dal tipo di risposta magari suggerirei un controllo odontoiatrico. E per quanto riguarda il colore dei denti, beh diciamo sicuramente il colore dei denti è geneticamente già predisposto, però vi possono essere delle condizioni particolari per le quali i denti possono avere un colore diverso, possono avere magari manifestare delle macchie presenti sui denti, che possono avere cause diverse. Ora è difficile così rispondere senza avere il quadro del bambino davanti, però certo ci possono essere vari motivi che possono essere però a loro volta dei campanelli di allarme per delle manifestazioni anche a livello odontoiatrico e non, che sono sicuramente da individuare senza nessuna forma di allarmismo ovviamente, però suggerirei un controllo. Una carie così diffusa come quella che ci racconta questa signora sulla sua nipotina di 2 anni e mezzo, una questione che va tenuta sotto e monitorata in che maniera, professoressa Docimo? La bambina aveva i denti cariati? Ha i denti cariati, 2 anni e mezzo, e comunque ci rassicura questa nonna che non mangia dolci, non mangia carne, quindi alimentazione però prende più... il latte notturno dalla mamma. Esattamente. Ecco, e allora diciamo che questo è sicuramente potrebbe essere una causa. Noi suggeriamo sempre un attento controllo prima di andare a letto. Perché? Perché sicuramente l'allattamento, la suzione di biberon zuccherati o con latte non zuccherato possono sicuramente essere causa di carie, quella che viene definita la BBS, Baby Bottle Syndrome, oppure la carie precoce della prima infanzia, perché sa, durante la notte quelli che sono i movimenti di autodetersione della lingua sono sicuramente limitati e lo zucchero o comunque quanto è contenuto diciamo nel latte a contatto con le superfici dei denti può portare o predisporre a un'aggressione, diciamo, e quindi alla carie. E purtroppo questa è una carie che noi vediamo ancora con notevole frequenza. Ed ancora oggi questi biberon con latte sono molto diffusi. Professoressa Docimo, abbiamo capito l'essenza, il cuore del suo messaggio. Noi purtroppo dobbiamo salutarla. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ma la richiamiamo presto. Abbiamo lasciato fuori troppi argomenti, molti ce li stanno sollecitando i nostri ascoltatori. Si riprepari ad una nuova puntata a breve. Intanto grazie molte, giornale radio, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Eh sì, poteva essere una settimana durissima per i mercati finanziari internazionali dopo l'attentato di Parigi di venerdì notte. L'offensiva del terrorismo ha drammaticamente riproposto le questioni geopolitiche fra i fattori più rilevanti che condizionano i mercati e l'economia. E partiamo da questo, oggi con la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Oggi a commentare con noi i fatti più rilevanti della cronaca finanziaria è tornato Vittorio Gaudi, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Eccoci. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Allora, intanto vi ricordo che potete sempre intervenire chiamandoci all'800 24 00 24 per commentare con noi le notizie finanziarie e per condividere le vostre strategie finanziarie e i vostri pensieri sui fatti del momento. Dalle politiche monetarie, peraltro proprio ieri sera sono state pubblicate le attese minute della Federal Reserve, cioè i verbali dell'ultima riunione, da cui si evince una conferma che la stretta monetaria arriverà a dicembre, e di questo parleremo anche nel corso della trasmissione, ma parleremo anche di tassi sotto zero delle obbligazioni di Stato, del rally di borsa, del recupero vistoso delle piazze cinesi delle ultime settimane e, ultimo ma non ultimo di certo, il tema geopolitico e le crisi internazionali legate alle recrudescenze terroristiche. Che peso ha anche questo tema nelle scelte di risparmio? Dottor Gaudio, gliela faccio subito questa domanda. Avete notato una preoccupazione particolare in questi giorni fra i vostri clienti? Ma guardi, è chiaro che gli eventi sono stati talmente devastanti che non escludo che qualche persona, qualche risparmiatore possa, diciamo, tenerne conto. In effetti poi nel concreto non abbiamo visto flussi di uscita dai prodotti gestiti, quindi sotto questo aspetto concretamente non si è visto ancora nulla. E quindi ne parleremo nel corso della trasmissione per capire, allora, una volta che magari si sarà fatto un ragionamento un po' più a mente fredda, quanto di questi aspetti deve tener conto un piccolo risparmiatore, e soprattutto aspetto fondamentale forse, dottor Gaudio, come gestire magari nel medio termine l'emotività che si continuerà a legare alle notizie che leggiamo, no? È indubbio, è chiaro che il problema vero qual è? Perché abbiamo visto ad esempio i mercati che sembra che non abbiano reagito, allora le accuse di cinismo piovono sui mercati, gli investitori sono freddi. In realtà cosa succede? L'impatto vero sui mercati ci potrà essere eventualmente se tutti questi fatti produrranno un cambiamento nelle abitudini di consumo. È chiaro che se noi nei prossimi mesi dovessimo ravvisare che ad esempio in Francia, ma non solo, nell'Eurozona le persone spenderanno di meno perché sono preoccupate, è chiaro che questo ha un riflesso poi anche a livello macroeconomico e i mercati ne prenderanno certamente conto di questi aspetti. Allora, che i mercati sono cinici, come lei lo diceva poco fa, lo abbiamo capito da un po' e abbiamo visto questo comportamento anche in passato legato ad altri fatti. Certo che però forse il brindisi di borsa di questi giorni, quello soprattutto che c'è stato fra lunedì e martedì, non ce lo aspettavamo. In reazione agli attentati di Parigi effettivamente forse ci si aspettava altre conseguenze, una ripresa della corsa dell'oro, dei beni rifugio, come sottolinea anche stamattina Moria Longo sul Sole 24 Ore, un petrolio un po' più effervescente, le borse se non in caduta ma almeno più caute. Non è successo nulla di tutto questo, come ve lo spiegate? Devo dire, c'è anche un aspetto tecnico, no? Nel senso che noi abbiamo sentito parlare dell'11 settembre dell'Europa, attenzione che la vicenda dell'11 settembre è successa a mercati aperti. Ed è brutto anche dire, mettere in ballo queste situazioni tecniche per spiegare le reazioni ai mercati, ma noi abbiamo avuto un weekend sostanzialmente per elaborare questa notizia, non è avvenuta a mercati aperti, quindi un minimo di preparazione, diciamo, i mercati l'hanno avuta a cercare di digerire una notizia così devastante. E poi effettivamente finché non abbiamo idea di che tipo di effetto può avere a livello macroeconomico, evidente gli investitori che, non faranno nessuna è difficile anche scommettere o speculare, perché poi per certi diversi sarebbe anche questa una speculazione, no? Quindi ribassista, che secondo me non deve essere praticata. Ecco, quindi noi che cosa vediamo? Vediamo certamente che in questo momento gli aspetti fondamentali dominano. Ecco, lei citava prima ad esempio il tema del petrolio, perché non ha reagito? Beh, sostanzialmente per due motivi. Allora, il primo è che c'è un tale eccesso di offerta di petrolio, l'abbiamo già detto molte volte, che in effetti tutto sommato non si capisce quali dovrebbero essere i fattori che lo possono spingere al rialzo quando c'è tale abbondanza di petrolio. Infatti, anzi, ieri il WTI, il greggio americano, ha fatto anche una puntatina sotto, sotto i 40 dollari. Infatti, quindi siamo sostanzialmente ai minimi. Ecco, abbiamo visto anche il Brent che più o meno si agita attorno a questo livello. E poi c'è anche il tema della forza geopolitica della coalizione che si sta formando, perché pensiamo che effettivamente è brutto dirlo, ma questo evento potrebbe in effetti causare l'inizio della risoluzione del tema. Ma Siria, del tema Iraq, di tutta la crisi medio orientale, perché se effettivamente si arrivasse a una grande coalizione, ecco, per mutuare un termine politico anche in termini diciamo bellici, ecco noi troveremo una Russia e un'America che cooperano insieme, quindi questo potrebbe essere effettivamente l'inizio della soluzione. Commentavamo quindi proprio a microfoni spenti questo nuovo ruolo della Russia che sta tentando appunto di ritagliarsi con bravini, Putin, eh? Che si riavvicina all'Europa, bravini. Esatto, forse in funzione con l'obiettivo di come dire, abbattere le sanzioni come sta penalizzando questo paese era tanto tempo. Certo è che è un tema interessante, poi magari ce la facciamo, lo commentiamo. Detto questo, allora l'oro non ha corso un pochino, i titoli di Stato sì, le borse non sono crollate, il petrolio non ha ripreso a volare, anzi continua a scivolare verso il basso, ma si sta facendo per caso strada qualche nuovo concetto di bene rifugio, dottor Gaudio? Paradossalmente lo stanno diventando le azioni? Ma è possibile, guarda, questo è un tema su cui stiamo ragionando da tanto tempo. È chiaro che in un contesto in cui le commodity, cioè quindi le materie prime, per dirlo in italiano, sono soggette a un eccesso d'offerta molto forte, cioè tutte le materie prime sono in una situazione di superabbondanza come non abbiamo visto da qualche tempo, dove abbiamo i classici titoli di Stato che stanno diciamo viaggiando a rendimenti non zero ma sotto zero, beh, quindi alla fine si va un po' per alternativa, ecco, quindi è chiaro che quando ho dei titoli azionari di qualità che magari mi danno anche dei dividendi importanti, e perché no, potrebbero diventare effettivamente un bene rifugio. Insomma, quindi una strategia per il futuro potrebbe essere quella, fare un focus un po' più approfondito sull'equity, il mercato azionario, e magari su quelle società che possono essere anche messe insieme in un fondo appositamente dedicato, che riconoscono una remunerazione, quindi un flusso cedolare costante ed interessante. Allora cominciamo subito ad aprire i microfoni ai nostri ascoltatori, visto che già si sono messi in coda da un po'. Cominciamo con Alessandro da Agrigento all'800 24 00 24. Benvenuto Alessandro. Grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. La domanda che devo porre al vostro esperto era questa: io posseggo dei titoli di Stato, dei BTP Italia, legati all'inflazione con scadenza nell'aprile del 20, dove praticamente custodisco i risparmi. Io vi chiedevo, alla luce della quotazione attuale che dal collegamento ad oggi ha prodotto più del 6%, se conveniva venderli per monetizzare o attendere l'annunciato secondo quantitative easing della BCE, che dovrebbe, penso, favorire la crescita dell'inflazione e quindi rendere le cedole più appetibili. Ecco, era questa, e anche in relazione quindi alla situazione geopolitica in atto, se conveniva vendere e magari attendere per fare poi cose. Certo. Allora Alessandro, grazie. Naturalmente noi possiamo fare delle considerazioni di carattere generale, bisognerebbe conoscere i suoi obiettivi finanziari, la sua situazione chiaramente più complessiva, però insomma è una domanda molto interessante quella che fa Alessandro, perché in realtà parla di questo strumento particolare che il nostro tesoro ha emesso, il tesoro italiano, qualche anno fa, quando eravamo nel pieno della crisi dello spread, quando era ben al di sopra di 400-500 punti base, un'operazione che porta la firma di Maria Cannata, la titolare del tesoro italiano, che appunto proprio costruì questo speciale BTP, questo strumento a 4 anni, se non mi ricordo male i BTP Italia durano 4 anni e furono proprio degli strumenti pensati per il risparmiatore italiano in un momento in cui c'era una grande fuga dal titolo di Stato appunto del nostro paese. Lui probabilmente è uno dei primi, non è ben chiaro se voglia o se sia il caso di portarla a scadenza, lui dice, perché comunque sono strumenti che hanno un rendimento legato all'inflazione che adesso è molto bassa. Dottor Gaudio, intanto che cosa le suggerisce questa domanda di Alessandro, che mi sembra anche molto molto attenta, molto circostanziata? Beh, io direi partiamo dal punto di vista dell'inflazione, dove vanno i rendimenti dei titoli di Stato. Ecco, io credo che la possibilità di una ripresa dell'inflazione, diciamo, nel breve periodo, poi è difficile prevedere più a lungo, sia abbastanza remota, nel senso che l'inflazione che Mario Draghi stia spingendo è abbastanza difficile che giunga all'obiettivo del 2% in breve tempo, perché in effetti, come abbiamo detto più volte, parlavamo delle materie prima, non ci sono le condizioni di una ripresa dell'inflazione, quindi sotto questo profilo è chiaro che questo è uno strumento che è stato studiato in termini di salvaguardia del valore reale del risparmio, però è anche vero che tutto sommato non ci sono queste grandi preoccupazioni per quanto riguarda appunto il valore reale, quindi l'inflazione. Io cosa farei di questo titolo? Beh, tutto sommato, se comportato bene, potrebbe valere la pena in parte magari monetizzare queste plusvalenze importanti che si sono create, però naturalmente, come diceva lei, bisogna anche capire in termini di alternativa quali sono poi le preferenze e le esigenze finanziarie del cliente, perché io potrei anche proporre di guardare altrove, quindi verso strumenti che hanno una redditività più elevata, possono essere obbligazioni ad alto rendimento piuttosto che anche una parte azionaria, però naturalmente così facendo andiamo a immettere una componente di rischio che, ripeto, certo, non so quanto sia desiderata. Devo dire che Alessandro ha anche sollevato un aspetto, ci ha rilasciato una frase un po' sibillina: ho tutti i miei risparmi lì. Che è una cosa quindi in termini di diversificazione è vero che nei confronti dei titoli di Stato non ci sono assolutamente preoccupazioni, per carità, quindi nessuno vieterebbe di detenere tutti i propri risparmi in un solo strumento finanziario. È chiaro che, diciamo, buona ragione, una considerazione di buon senso porterebbe invece a una maggiore diversificazione di questi risparmi. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che potete continuare a comporre per le vostre osservazioni, considerazioni e domande sul tema di oggi. Prima di sentire Giuseppe dalla provincia di Arezzo, un altro tema che volevo affrontare con Vittorio Gaudio, perché lei ce lo faceva capire anche poco fa, insomma, suggerite sempre di mantenere la dovuta cautela in queste situazioni, di non prendere decisioni di investimento avventate. In ogni caso, per chi volesse prendere un po' le distanze dai fatti drammatici di questi giorni, no? È giusto secondo lei quello che stanno facendo molti investitori, nel senso che stanno lontani, hanno venduto a piene mani proprio per una questione legata alle preoccupazioni sui consumi futuri, dai titoli del lusso e dai consumi in generale, perché appunto la sfiducia si ripercuoterà in questi comparti, e puntare su energia e difesa? Per chi volesse agire con un pizzico di spirito speculativo, che cosa deve fare secondo lei? Come guardare al mercato in questi giorni? Beh, certamente le reazioni che abbiamo visto a livello settoriale io le definisco comunque reazioni di pancia, un pochino di pancia. Ecco, quindi sono movimenti che possono fare i trader nel breve periodo con un orizzonte temporale molto circoscritto, per cui lo fanno, vendono magari dopo una settimana e finita lì. Ecco, che un risparmiatore privato si metta a fare questo tipo di strategie di valore relativo, come li chiamano i tecnici, quindi andare a lunghi di una cosa e corti di un'altra, sono sempre situazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, anche perché in realtà, se andiamo a vedere quello che è il comportamento ad esempio del settore del lusso, in realtà aveva già sofferto prima non tanto per Parigi quanto per il rallentamento vero presunto dei paesi emergenti. Esatto. Ecco, quindi direi che è un settore che è già stato abbondantemente liquidato, comunque rallentato nella sua corsa, quindi che valga la pena di fare questi movimenti speculativi di breve mi faccia mantenere qualche dubbio, soprattutto per i risparmiatori privati. Dottor Gaudio, venerdì, prima che si scatenassero i fatti di Parigi, le borse avevano archiviato una settimana negativa perché stanno scontando appunto diversi fattori che deprimono i prezzi. Il rialzo dei tassi americani a dicembre, i futures su questa prospettiva scontano questa probabilità quasi al 70%, e poi ieri sera questa probabilità è stata confermata, lo dicevamo all'inizio, dalle minute della Federal Reserve. Allora, le minute della Federal Reserve sono i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, per tradurre al volo in italiano questo argomento, ma quanto sono importanti questi verbali? Perché oggi arrivano anche dalla Banca Centrale Europea, che in realtà li pubblica da pochissimi mesi, in realtà non era prima un comportamento abituale dalla BCE. Sono documenti che voi guardate anche come investitori? Certamente, guardiamo, anche perché ci danno diciamo l'impressione di quelli che sono gli equilibri all'interno di queste riunioni, quindi i famosi falchi e colombe. Poi in effetti però io vorrei un pochino smitizzare l'importanza di questi documenti, anche perché a mio parere che ci sia un rialzo dei tassi Fed è scritto. Ecco, quindi qui possiamo discettare se avviene a dicembre piuttosto che a febbraio, ma voglio dire, è una questione semplicemente di un piccolo ritardo. La situazione dei tassi è destinata a un rialzo, che sarà un rialzo secondo me graduale, molto ragionato, però in effetti in quella direzione si va. Però se mi consente, io credo che la debolezza dei mercati prima dell'evento Parigi, quindi come lei citava, una settimana negativa, fosse più legato per certi versi, almeno questa è la mia interpretazione, a qualche timore sulla crescita, nel senso che la crescita americana alla fine è buona ma non è straordinaria, quindi è chiaro non fuochi d'artificio, non ci sono i fuochi d'artificio, ecco, quindi sotto questo aspetto le borse oggi che cosa vogliono? Non si preoccupano, a mio parere, del 25 punti base di rialzo americano, si preoccupano che sia una crescita che riesca a sostenere un eventuale rialzo dei tassi, quindi deve esserci una crescita buona. Se a dicembre la Yellen, quindi la signora che comanda le sorti della Federal Reserve, dice alziamo i tassi perché l'economia va bene, io credo che le borse reagiscano bene, non male. Quindi questo è il tema. Benissimo, noi la reinterrogheremo di nuovo fra qualche settimana su questo. Giuseppe dalla provincia di Arezzo, prima di andare a sentire cosa succede oggi in borsa, cosa vuole chiederci? Benvenuto intanto. Sì, pronto? Ci siamo, Giuseppe, eccoci a lei. Buongiorno, Deborah, e complimenti per la sua competenza. Grazie. Senta, io non ho mai sentito parlare da voi, o mi è sfuggito a me, delle obbligazioni della BEI. Sì, Banca Europea degli Investimenti. Degli investimenti. Mm-hmm. E vorrei sapere che bajo c'è in questi investimenti, perché secondo me non sono da buttare via, perché hanno la tassazione del 12,50, hanno dei tassi abbastanza alti. Mm-hmm. L'unico bajo forse è la valuta che Grazie Giuseppe, ci dà l'opportunità di introdurre l'argomento ben ampio degli investimenti negli enti sovranazionali, così vengono definiti la Banca Europea degli Investimenti come anche altre istituzioni. Ne parliamo dopo le borse, magari facciamo una cosa, Carmelo, inserisco anche la domanda di Gianluigi da Varese, così dottor Gaudi ha tutto il tempo per studiare delle risposte, delle considerazioni appropriate per i nostri amici che ci stanno chiedendo un parere. Gianluigi, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno, volevo fare questa domanda. A suo parere, per quanto riguarda i titoli bancari italiani, c'è ancora una... Qua abbiamo un po' un conflitto di interessi e non so quanto le possiamo rispondere. La prenderemo alla larga con col dottor Gaudio, Gianluigi, magari facendo un ragionamento un po' più complessivo sul prodotto Italia, anche in relazione a quello che ne pensano gli investitori internazionali. Comunque grazie anche a lei, bel settore bancario, qua ce l'abbiamo sempre sotto riflettori, il nostro paese. Sicuramente. Un po' meno dolorante ultimamente, c'è tutta la partita delle popolari, la trasformazione in SPA, ma insomma abbiamo tanti argomenti. Allora, facciamo così, andiamo subito a sentire i mercati di oggi, dopo riprendiamo con Giuseppe e gli enti sovranazionali, a tra poco. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Bisogna proprio coccolarle queste monetine, perché una dietro l'altra possono anche fare un grande risparmio, naturalmente però bisogna anche collocarle correttamente. Eccoci tornati ad Investire Informati, noi continuiamo a commentare le notizie economico-finanziarie di questo periodo con i consigli per i vostri piccoli risparmi e per i piccoli risparmiatori. Siamo in compagnia di Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. 800 24 00 24 per tutti i vostri interventi in diretta. Siamo partiti inevitabilmente dai fatti di Parigi, siamo andati a commentare le reazioni che non abbiamo visto, quelle che sarebbe stato naturale attendersi tra i mercati finanziari internazionali, tra materie prime. Non abbiamo ancora affrontato e scandagliato il tema valute, che forse quello in realtà un pochino si è messo in movimento, non tanto per i fatti di Parigi quanto per le attese sui tassi. Adesso ne parleremo, ma andiamo un po' a rispondere alle richieste di aiuto di Giuseppe D'Arezzo e Gianluigi da Varese. Allora, Giuseppe D'Arezzo chiedeva chiarimenti sul motivo per cui magari non viene data generalmente adeguata rilevanza all'investimento in obbligazioni di enti sovranazionali. Lui ha citato le obbligazioni della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che è una non delle tantissime organizzazioni sovranazionali che esistono, e sono però insomma organizzazioni importanti, perché sono delle entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese, forse per questo sono largamente diversificate già per loro natura, dottor Gaudio. Io direi questi titoli vanno visti secondo me sotto due dimensioni. Allora, la prima è quella del rischio di credito, cioè del rischio emittente di questi organismi sovranazionali, che è un rischio inesistente, quindi hanno normalmente un rating molto elevato. Quindi sotto questo aspetto cosa vuol dire rating molto elevato? Che anche i rendimenti che possono offrire sono oggi in un mondo di rendimenti molto bassi, direi decisamente poco significativi, molto contenuti. Se noi compriamo un'obbligazione BEI in euro, è un'obbligazione che oggi ha dei rendimenti estremamente contenuti. Quindi grande sicurezza, però in effetti ecco, la possibilità oggi di avere dei rendimenti particolarmente importanti, soprattutto se acquisto delle BEI in euro piuttosto che in dollari, è effettivamente limitata. È chiaro che, come lei diceva, la BEI piuttosto che Banca Mondiale hanno anche messo ad esempio in valute emergenti piuttosto che in valute minori, dove si può avere anche un rendimento molto importante, però certamente con un rischio valutario che è significativo. Quindi direi non è che se non se ne parla, diciamo che è un emittente di assoluta sicurezza che forse era un pochino più presente, chiacchierato, diciamo, nelle scelte degli investitori italiani. Oggi effettivamente se ne parla di meno, ma non perché ci siano dei problemi, ecco, non ci sono i bachi, come diceva il signor Giuseppe. Senta, rischio valutario, lei ha citato questa espressione poco fa, allora commentiamo per un attimo, prima di andare alle questioni legate alla finanza italiana, l'andamento del mercato valutario. Euro a 1,0690 sul dollaro, si sta riportando intorno a 1,07, era un po' scivolato al di sotto di questo livello in questi giorni, ai minimi da agosto. Una tendenza determinata dalle debolezze europee o dalla prospettiva del rialzo dei tassi americani? Ma noi abbiamo una situazione tra qualche settimana, quindi molto probabilmente nella prima parte di dicembre, dove vedremo per la prima volta una grandissima divergenza di comportamenti tra le due banche centrali, quindi tra quella americana e quella dell'Eurozona, proprio perché con tutta probabilità a dicembre avremo la Fed che alza e con altrettanta probabilità avremo la BCE che fa il contrario. Ecco, è chiaro che la BCE, più che abbassare i tassi di riferimento, molto probabilmente abbasserà il tasso sui depositi, che già è negativo, oggi è meno 0,20, quindi le banche che lasciano i depositi presso la BCE pagano per avere questo privilegio, quindi pagano 0,20, quindi c'è un interesse negativo 0,20, con tutta probabilità questo tasso sui depositi scenderà ulteriormente, andrà ancora più profondamente in territorio negativo, si parla di meno 0,30 piuttosto che meno 0,35, quindi un ulteriore ribasso di questi tassi sui depositi. È chiaro che con un comportamento così diverso delle due banche questo avrà un riflesso sulla parità euro-dollaro. Si parla tranquillamente di rivedere l'1,04 è qualche cosa che abbiamo visto come livello minimo all'inizio dell'anno, ma qualche analista sta già parlando correntemente della possibilità di vedere la parità, quindi a 1-1. Certamente avremo un dollaro forte. Approfittare le aziende italiane. Esatto. Allora, a proposito di queste imprese italiane, andiamo un po' a sentire che cosa ne pensa sulle considerazioni fatte da Gianluigi da Varese. Sappiamo benissimo il motivo per cui grandi commenti sul tema bancario italiano non possiamo farlo, dottor Gaudio, però sul prodotto Italia, visto nell'ottica degli investitori internazionali, si può fare, insomma, adesso a prescindere dalla consuete caratteristiche del nostro listino, una vastissima esposizione nel settore bancario e finanziario di cui bisogna tener conto, ma la borsa italiana, pur non essendo grandissima, è fatta anche di tanto altro, ci sono anche i segmenti dedicati alle piccole aziende, quindi tante novità anche che Borsa Italiana ha presentato in questi ultimi anni. Come dobbiamo guardare oggi all'investimento in Italia? Ma direi per il risparmiatore italiano che vuole investire su questo settore, gli elementi nuovi sono sostanzialmente due. Allora, il primo è quello del bail-in, ne abbiamo già parlato tante volte, per cui è chiaro che chi è che compra titoli bancari, stiamo parlando sia l'azionario che l'obbligazionario, deve avere un occhio particolare sulla solidità della banca in cui sta investendo, perché sapete che dal 1 gennaio, ed è stato anche approvato dal Parlamento italiano, il 1 gennaio 2016, se una banca ha dei problemi, se va in dissesto, beh, sono i risparmiatori in quella banca che in qualche modo vengono coinvolti, a partire dagli azionisti, ma poi anche dalle obbligazioni subordinate, che grande diffusione hanno avuto anche in Italia presso il pubblico retail, e poi le obbligazioni normali fino ai conti del deposito eccedenti i 100.000 euro. Quindi sotto questo aspetto grande attenzione a dove si investe, perché è chiaro che se io compro un'obbligazione subordinata oggi, ecco, un occhio a come va la banca e l'emittente lo devo assolutamente dare. Secondo aspetto invece, che riguarda quello che può essere il tema fusioni, acquisizioni, cambiamenti di assetto societario, io credo 2016 assisteremo a cose interessanti, soprattutto nel mondo delle popolari. Ecco, di lì che si voglia andare poi a speculare, diciamo, sulla singola azione, certo, può essere un altro tra discorso. Tra di loro stanno certamente parlando, lo hanno detto in molti manager di spicco delle più grandi appunto istituzioni bancarie di questo settore, delle popolari, proprio nei giorni scorsi, quando hanno rassegnato le loro trimestrali, per cui certamente monitoriamo qualche novità, sia che ci siamo sarà. sia da clienti, diciamo, che come potenziali investitori. Allora, dottor Gaudio, allora andiamo all'altro tema grandissimo, molto importante, di cui abbiamo parlato tante volte, ma le spiegazioni a quanto pare sono insufficienti per i nostri ascoltatori, perché proprio non riescono a capacitarsi del fatto che un investitore possa sottoscrivere un titolo di Stato per ottenere poi, dopo qualche mese, indietro un capitale inferiore rispetto a quello che ha investito. Allora, ricordiamo un po' tutte le aste più interessanti delle ultime settimane. Il 27 ottobre il Tesoro ha collocato 1.750.000.000 di CTZ a 2 anni. Il rendimento è stato negativo per lo 0,023%. È stata la prima volta nella storia che un CTZ ha dovuto riconoscere un tasso negativo. Poi abbiamo avuto i bot semestrali. 28 ottobre, tasso negativo per lo 0,055%. L'altra scadenza importante, che pure è stata piazzata con un rendimento chiesto dal mercato negativo, i bot ad un anno, l'11 novembre, meno 0,03%, il Tesoro ha collocato 6 miliardi. Poi potremmo fare il riepilogo anche di tutti i BTP a scadenza varia. In questo caso non abbiamo ancora rendimenti negativi, abbiamo però tassi ai minimi storici. Ma qua è veramente un maremoto, dottor Gaudio, ma che sta succedendo? Ma guardi, qui io levo il cappello di esperto, presunto tale, perché in effetti per un investitore privato, l'investitore retail, le ragioni per comprare rendimenti negativi effettivamente è difficile trovarle. Per un investitore istituzionale, quindi diciamo ad esempio una tesoreria bancaria, può essere invece una cosa più ragionevole. Perché? Perché, come dicevamo prima, se io sono la banca ABC e devo andare a depositare le mie eccedenze di liquidità presso la banca centrale, devo pagare 0,20, uh-huh, e quindi tutto sommato è meglio pagare 0,05 che pagare 0,20. Ecco, non so se rendo l'idea, quindi è più comprensibile da parte di un investitore istituzionale, da parte di una tesoreria bancaria, andare anche in asta e acquistare dei titoli a rendimento leggermente negativo. Oggettivamente per un privato è inspiegabile. Ecco. Intanto un ascoltatore ci dice la Federal Reserve non aumenterà, glielo dica al suo interlocutore, dottor Gaudio. Io glielo dico che la signora Yellen, secondo il nostro amico che ci segue da casa, a dicembre non farà nulla. Vabbè, comunque l'ha promesso per tutto l'anno, prima o poi non lo farà a gennaio, non lo farà a dicembre, lo farà a gennaio, a febbraio questo 0,25% lo deve mettere in pista. Ma direi è ragionevole quello che dice l'ascoltatore, nel senso che anche a mio parere non c'è una probabilità pari a 100 che faccia qualche cosa. Certamente, a sentire le ultime dichiarazioni, la probabilità è notevolmente aumentata. Infatti. Allora, Miriam da Milano. Miriam veramente ci fa una domanda molto bella. Richiederebbe, Miriam, una puntata solo il suo caso, perché il tema è, in realtà, più che dove mettere il denaro in questo momento, è come anche pianificare i propri obiettivi di vita, i propri obiettivi finanziari in relazione al gruzzoletto che si ha a disposizione in un determinato momento della propria vita. Miriam è andata in pensione, se non ho capito male, oppure ha terminato un lavoro, ha una bella liquidazione e non sa che cosa fare. Benvenuta intanto. Buongiorno a tutti. È esattamente così come lei ha esposto. Praticamente ho la mia liquidazione, sono andata in banca, mi hanno indirizzata su alcune cose, ma sinceramente il campo è molto difficile. Certo. E ancora non sono capace di decidere cosa fare appunto di questa liquidazione, perché purtroppo non ho le capacità cognitive, certo, delle varie cose che mi vengono offerte. Allora Miriam, intanto io faccio qua, opero in conflitto di interessi, adesso a Miriam regalerò il mio libro, ma non perché abbia delle ricette miracolose per poter gestire il denaro, però c'è un pochino di ABC su alcune cosine che magari a Miriam possono essere utili, quindi chiedo ai miei ragazzi se possono prendere riferimenti della nostra ascoltatrice. Dottor Gaudio, una domanda talmente delicata che le faccio ascoltare il traffico, così un attimo si isola, fa un ragionamento di massima su come poter indirizzare Miriam anche a fare una chiacchierata onesta con un consulente finanziario, perché credo che il tema sia questo per la nostra ascoltatrice, più che mettere in azioni, obbligazioni o un conto di deposito in un titolo di Stato il denaro. A tra poco. Cuore e denari. Sì, ci siamo dimenticati del nostro domandone, ma siamo subito qua pronti a farvelo, e quindi mano alla cornetta, 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per risponderci a questo quesito. Allora, noi abbiamo parlato a lungo, e lo facciamo da settimane, per cui non avete scuse, della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve. Allora, la Banca Centrale Americana ieri sera ha diffuso un documento importante, lo abbiamo spiegato a lungo, abbiamo commentato qual è la rilevanza di documenti di questo genere anche quando vengono diffusi nelle scelte di investimento dei grandi investitori soprattutto. Allora noi vi chiediamo banalmente di dirci come si chiama, e se avete capito spiegateci anche in modo semplice di che cosa si tratta. Valgono solo le risposte al numero verde 800 24 00 24. Noi siamo pronti ad aprire la nostra libreria. E invece il dottor Gaudio si è tolto la giacca da amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi e si è messo quella, ha indossato quella di consulente finanziario di Miriam. Allora Miriam, intanto freddamente dice ancora non ho preso nessuna decisione, quindi non si fa neanche tanto suggestionare dalla banca, che evidentemente corre un po' dietro, chissà se avrà proposto qualche obbligazione di casa propria eccetera. Comunque impostiamo in maniera corretta una chiacchierata con un buon consulente finanziario. Dottor Gaudio, cosa deve fare Miriam? Innanzitutto io direi ringrazio la signora, perché si è posta di fronte a questo problema con un atteggiamento molto evoluto, quindi non tanto provo a fare delle cose ma cerco di capire qual è la soluzione più razionale, quindi quello secondo me è un ottimo punto di partenza. Bisogna mettere in fila quelle che sono le esigenze prevedibili di spesa, il tipo di reddito, il tipo di rendita che voglio produrre nel tempo, perché è chiaro che oggi come oggi posso avere un 1% di rendimento dal mio capitale con rischi relativamente limitati, però bisogna capire se l'1% è sufficiente, se voglio dei rendimenti aggiuntivi, perché noi siamo abituati purtroppo storicamente a rendimenti più elevati, oggi bisogna tenere conto che un po' di rischio bisogna prenderlo. Quindi banalmente, se la nostra ascoltatrice avesse bisogno di un flusso cedolare costante per integrare il reddito, certamente il titolo di Stato non è proprio l'idea dell'anno. Si fa fatica, bisogna andare su dei prodotti che paghino delle cedole più importanti, può essere anche un prodotto con composizione azionaria, certo. Quindi senza esagerare, perché poi alla fine è bene essere anche consci dei rischi che si vanno a correre, perché poi si ci fa prendere anche dal rendimento importante, poi magari dopo qualche mese i mercati possono avere volatilità e vado dal mio consulente e mi lamento, perché questo è un comportamento legittimo, comprensibile, che però cozza un pochino con l'esigenza di una buona pianificazione. E come lei diceva, io credo che rivolgersi a un consulente finanziario preparato, perché poi magari al di là dei fondi, al di là degli strumenti, ci possono essere anche soluzioni di tipo previdenziale, assicurativo, esatto. Importante costruirsi una pensione integrativa, ci sono tanti aspetti, voglio dire, il mondo della pianificazione finanziaria, come giustamente la signora rileva, è un mondo complicato oggi, quindi come quando vado dal primario o dal medico mi affido in maniera anche fiduciosa a quello che sono i suoi suggerimenti, devo fare lo stesso anche con un buon consulente finanziario. Allora, la prima cosa che io posso dire a Miriam è che certamente, se non appena ha avuto la percezione che mettendo a disposizione dell'istituto di credito questa somma, la banca, la prima cosa che ha fatto è ha proposto dei prodotti, non ha fatto una chiacchierata onesta con l'ascoltatrice per sapere da lei. Questo è già un brutto segno. Esattamente. giustamente. Quindi già Miriam, allora lei faccia un pochino un dispetto, si prenda ancora del tempo, perché tanto quel denaro non glielo toglie nessuno. 800 24 00 24 è il numero verde a cui potete rispondere al nostro domandone. Appunto, parlavamo di Banca Centrale Americana, che ieri sera ha diffuso un documento importante. Vi abbiamo chiesto di dirci come si chiama e se volete anche cimentarvi nella spiegazione in modo semplice di che cosa si tratta. Noi naturalmente saremo ben disponibili a aprire la nostra libreria per naturalmente regalarvi uno dei nostri libri. Tra l'altro, a proposito di banche centrali, questa mattina anche quella del Giappone ha tenuto invariata la politica monetaria, pur essendo caduta in recessione tecnica questa economia, dottor Gaudio, perché proprio nei giorni scorsi abbiamo saputo che pure lì si arranca e di liquidità, la Abenomics. Il tema di queste politiche monetarie straordinarie, perché poi alla fine, ecco, un qualche cosa che sta iniziando forse a trapelare sui mercati è che questa fiducia illimitata nelle capacità delle banche centrali di dare la scossa all'economia, non ci vogliono solo le banche centrali, questo è un po' la sensazione che tra gli investitori sta serpeggiando, ci vuole qualcos'altro. Ecco, forse dovremmo anche andare a riprendere le vecchie care politiche fiscali, magari fatte meglio di un tempo. Senta, siamo in una fase molto interessante, perché da qui alla fine dell'anno voi, come tutte le grandi banche, le società di gestione del risparmio e non solo, appunto, cominceranno ad elaborare i cosiddetti outlook sul 2016, quindi faranno un po' di, aprendo, non lo so, qualche libro magico, qualche sfera di cristallo, qualche previsione appunto su quello che succederà nell'anno prossimo. In genere è un lavoro, dottor Gaudio, che viene fatto come? È un tema anche interessante, perché leggeremo di queste previsioni da qui alla fine di dicembre su tutti i giornali finanziari. Voi ne state già formulando qualcuna di previsione con il suo team? Su che cosa punterete l'attenzione? Beh, certamente, diciamo, la prima mossa è quello di capire quello che è il consenso degli operatori, ecco, quindi raccogliere un numero importante soprattutto di ricerche e di strategisti, come si usa dire, quindi di persone che formano previsioni che siano attendibili o che hanno dimostrato nel tempo di essere attendibili. Devo dire, bisogna fare questo anche con un pizzico di scetticismo, perché poi molto spesso abbiamo visto che alcune di queste previsioni non sempre si avverano con accuratezza. Però da dove si parte? Si parte certamente dall'aspetto macroeconomico, quindi le previsioni macroeconomiche, e dove ultimamente indubbiamente il comportamento delle banche centrali, cercare di prevedere che cosa faranno, occupa un posto centrale. Che cosa pensiamo di questo inizio del 2016? Io credo che alla fine alcune delle tendenze che stiamo già vedendo, almeno per il primo trimestre, saranno ancora presenti, quindi una relativa forza del dollaro, mercati azionari che dovrebbero continuare a fare discretamente, rendimenti dei titoli di Stato che rimangono bassi. Non credo che ci saranno forti rialzi di questi rendimenti, anche perché, ripeto, manca l'inflazione. Quindi uno scenario nel complesso abbastanza benigno, ecco, per gli investimenti finanziari. E questo è quello che pensiamo per la prima parte. Per la seconda ci vedremo. È un po' difficile cominciare a sbilanciarsi già da metà novembre del 2015. Maurizio da Roma, allora, abbiamo scelto lei come ascoltatore che tra i primi hanno risposto appunto al domandone di oggi. Come si chiama il documento che ha rilasciato ieri sera la Banca Centrale Americana e che dovrebbe rilasciare in giornata anche la Banca Centrale Europea? Intanto, benvenuto. Buongiorno. È la minuta di meeting di questa riunione, nella quale si prevede che i tassi di interesse dovrebbero risalire. Grazie Maurizio, sì, la prendiamo, insomma, sono i verbali della riunione della Banca Centrale Americana. La Banca Centrale Americana ha sempre rilasciato questo documento, la Banca Centrale Europea lo sta facendo da poco, è stato un cambiamento anche di rotta molto interessante. Benissimo, Maurizio, vediamo che cosa possiamo regalare. Intanto noi al dottor Vittorio Gaudio regaliamo tutto il nostro ringraziamento per essere grazie stato voi, con noi. Oggi l'ho spremuta a dovere. Tutte le domande che avevamo in mente di farle le abbiamo fatte, ne abbiamo aggiunte anche delle altre. Grazie a tutti. Grazie molte. Intanto io ringrazio Carmelo Lauricella, Marco Lombardo, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Con Cuore e Denari e con Nicoletta Carbone noi ritorniamo domani. Intanto a tutti, buona giornata.